Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 12 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda l'Italia, ci occuperemo del rapporto della Corte dei Conti, rapporto 2015, in un rapporto in cui va a analizzare la finanza pubblica e dice delle cose non scontate, nel senso che avvisa il governo e i governanti che sarà necessario per arrivare a una crescita duratura, una crescita seria dell'economia, ridurre anche le tasse. Non basta la spending review, non possono infatti sottovalutarsi le difficoltà di realizzare pienamente il programma di spending review. E poi aggiunge la Corte dei Conti, ci sono già ampi risparmi conseguiti nelle componenti più flessibili. Va un po' tradotta la Corte dei Conti, ma fa notare che la pubblica amministrazione, che pure lo raccontiamo tutte le settimane anche a livello locale, ha delle grosse sacche di inefficienza, nel suo complesso ha ridotto di 8,7 miliardi i costi dal 2011 al 2014 come spesa del personale. Altra cosa è dire che li abbia ridotti come acquisti di beni intermedi, e lì purtroppo non ci siamo. E anche lo scandalo, l'inchiesta Mafia Capitale, che sta travolgendo mezzo PD romano, entra nella logica poi degli sprechi di soldi pubblici, o in questo caso della corruzione vera e propria. Però la Corte dei Conti fa notare, attenzione, con il blocco dei contratti la spesa per i dipendenti della pubblica amministrazione si è già ridotta di 8,7 miliardi. E poi dice una cosa abbastanza velenosa: tra il 95 e il 2014 la quota di tasse pertinenti alle amministrazioni locali sul totale della pubblica amministrazione è quasi raddoppiata, passando dall'11,5% al 22%. Allora uno potrebbe dire: questa è colpa delle regioni, dei comuni, delle province? No, perché la Corte dei Conti dice in maniera esplicita: questo è stato il frutto di scelte operate a livello di governo centrale. Anche qui traduciamo, vuol dire che dal 95 in poi, avendo ridotto i trasferimenti dallo Stato verso gli enti locali, è aumentato il peso della tassazione degli enti locali stessi. Uno può rispondere: potevano tagliare e risparmiare? Sì, fino a un certo livello, dipende qual è la montata dei trasferimenti. E poi la Confedilizia, che oggi lancia l'allarme, insomma, IMU e TASI, arriverà complessivamente il gettito di IMU e TASI a 26 miliardi, un miliardo in più del 2014. 349-238-6666 per i vostri sms. Oltre che della Corte dei Conti, parleremo anche della vicenda autostrade. C'è una dichiarazione della Banca d'Italia che bacchetta la società Autostrade a fronte di una crescita delle tariffe che ha superato in questi anni l'inflazione. Non vi è stato un decollo degli investimenti, e su questo la responsabilità qui non è solo della società Autostrade, è anche dei governi che in questi anni non hanno vigilato, visto che quella è una concessione che è stata fatta al gruppo che gestisce la società Autostrade a patto anche di investimenti. E lì, voglio dire, la bacchettatura c'è per la società Autostrade, però anche per i governi, e dice in sostanza la Banca d'Italia: il mancato decollo degli investimenti da parte degli stessi concessionari, i cui investimenti sono rimasti stabili e non hanno seguito il profilo crescente definito nei piani di sviluppo annessi alle convenzioni siglate all'inizio dei 5 anni, 2008-2013. Faccio notare che l'abbiamo appena risiglate, e tra gli investimenti in calo vedono tra gli altri in testa Autostrade per l'Italia, che tra il 2013 e il 2014 ha portato i suoi investimenti da 1,2 miliardi a 770 milioni di euro. Anche di questo parleremo. Adesso però le altre notizie in breve. Eccola qua, dacci oggi la nostra Grecia quotidiana, un flash di agenzia. Appena battuto, il team dei negoziatori del Fondo Monetario Internazionale con la Grecia ha abbandonato il tavolo dove erano in corso le trattative a Bruxelles per la mancanza di progressi. Non è una bella notizia. E niente progressi, il team del Fondo Monetario lascia Bruxelles. Io faccio notare che a fine mese scade l'intera rata, le intere tre rate che la Grecia deve dare al Fondo Monetario Internazionale, 1 miliardo e 600 milioni di euro complessivamente. E oggi è stata un'altra giornata diciamo di nero, non positiva nella vicenda greca, perché il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha detto: condivido chi sta perdendo la pazienza, la gente sta diventando impaziente e condivido la loro impazienza. Dobbiamo tirare la mucca fuori dal ghiaccio, penso che sia una metafora tedesca o lussemburghese, ma si scivola molto e noi stiamo ancora provando a spingere. E infatti il Fondo Monetario, prima di abbandonare le trattative, aveva detto: ci sono importanti differenze, siamo ben lontani dall'accordo, non ci sono stati progressi per ridurre queste differenze. E purtroppo anche il presidente della Bundesbank, Hans Weidmann, parlando a Londra, ha detto: il rischio di un fallimento della Grecia cresce di giorno in giorno, i rischi non sono contenibili meglio di quanto lo fossero in passato. Quindi dice: attenzione, non è vero che siccome la BCE ha fatto varie misure, tra cui il quantitative easing, la Grecia non corre rischi, e in ragione di questo non andrebbero sottovalutati. Andiamo avanti, la borsa più 0,36% in questo momento Milano, più 0,70% Parigi, più 0,44% Francoforte, invariata Londra, Dow Jones più 0,30%, euro su dollaro 1,12%, pochi gli spunti oggi, devo dire, Tenaris meno 2,80%, Exor meno 1,1% come Finmeccanica, Pop Milano meno 0,70%, Unipolsai meno 0,60%, Campari mezzo punto percentuale. Invece il Monte dei Paschi più 3%, Enel Green Power più 2,60%, Hughes più 2%, Luxottica più 1,60%, Snam più 1,5% come Mediolanum e Fiat Chrysler. L'1,40% lo guadagna Fiat Chrysler e UbiBanca, scusatemi, anche Telecom Italia più 1%, Azimut più 0,80%. Oggi restiamo in Italia. Un dato diffuso dalla relazione della Covip, che è la commissione di vigilanza sui fondi pensione, fa notare come la crisi abbia fatto male anche ai fondi pensione, nel senso che il numero degli iscritti ai fondi pensione che ha sospeso i versamenti a causa del protrarsi della crisi economica è salito a 1.600.000 persone. Nel 2012 erano 1.200.000, quindi vuol dire che negli ultimi due anni, visto che il dato è riferito al 2014, altri 400.000 italiani hanno sospeso la rata del fondo pensione. Siccome io immagino che uno il fondo pensione lo faccia veramente in un'ottica di lungo periodo, chi la sospende perché veramente non ce la fa più, altrimenti sono tutti soldi che poi dovresti utilizzare nel futuro. Altri 400.000 italiani in più hanno sospeso i fondi pensione. Tra l'altro, per quello che riguarda la pensione, oggi il ministro al lavoro Giuliano Poletti ha detto che il governo è intenzionato ad aprire una discussione sulla flessibilità per l'accesso alla pensione, ma non vuole costruire altro debito né scaricare altri pesi sulle future generazioni. Può essere a costo zero per le generazioni future, può essere a costo del bilancio dello Stato se lo Stato decide di mettere risorse su questo obiettivo. Quindi il problema è quale tipologia di strumento, quale tipo di strumento si adotta e quel peso come va ripartito, perché è chiaro che una parte di questo peso dovrà andare sui cittadini che scelgono di anticipare l'uscita perché di fronte ad una scadenza prevista l'anticipano, bisogna capire qual è il punto di equilibrio tra l'interesse di questo cittadino ad uscire e l'onere per la collettività, e decidere se questa è una scelta che sul piano politico si decide di fare e in quale punto, ma oggi questo non è possibile dirlo naturalmente. Ricordo che alle 18, salvo slittamenti, dovrebbe iniziare il Consiglio dei Ministri che esaminerà i decreti attuativi del Jobs Act. Oggi sono usciti i dati del Ministero sui contratti. Io veramente però dico, ci mancava solo in questo paese avere tre fonti sui contratti, INPS, Ministero e Istat. Noi usiamo sempre l'Istat, anche perché ripetiamo allo sfinimento che è innegabile che sia migliorata in questi mesi la qualità dei contratti, cioè più contratti a tempo indeterminato e meno contratti a progetto, a chiamata, a partita IVA e quant'altro. Però è altrettanto, a parte l'ultimo dato di aprile, ne passa prima di dire che sta ripartendo l'occupazione, sta calando la disoccupazione. Comunque, dal Jobs Act nei decreti attuativi, da quello che si è capito, dovrebbe arrivare anche una stretta per l'uso della cassa integrazione. La durata massima complessiva della cassa integrazione ordinaria e straordinaria sarà di 24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per le imprese dell'edilizia contro gli attuali 48 mesi. Il tetto salirà a 36 mesi con il ricorso alla solidarietà. E poi però la cassa integrazione viene estesa anche alle imprese con più di 5 dipendenti. ...349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dal primo tema, e quindi la Corte dei Conti molto preoccupata dal fatto che ci si possa illudere che basti la spending review per fare ripartire il ciclo economico, chiede in maniera molto esplicita una diminuzione della pressione fiscale. Are you with me? Are you with me? Allora, l'ascoltatore che dice non dire balle, la disoccupazione è calata. Ho detto il dato di aprile, era il primo dato, aprile o maggio, scusate, forse faccio confusione io. A me sembrava aprile, però, l'ultimo dato dell'Istat, che è l'unica che per noi fa fede, perché fotografa da anni occupazione e disoccupazione. Allora, l'Istat aveva segnalato un leggero calo della disoccupazione ad aprile e un leggero aumento dell'occupazione ad aprile, che sono due cose diverse, ma erano due notizie, ambedue positive. Detto ciò, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Buonasera, buonasera a voi. La Corte dei Conti, insomma, da quello che ho capito io, però aiutami tu, dice, attenzione, la spending review non sottovalutate, lo dice il governo, le difficoltà di realizzare pienamente quello che avete messo in bilancio, cioè i 10 miliardi addirittura l'anno prossimo. Occorre, per arrivare a un ambiente macroeconomico espansivo, cioè per tornare a crescere, occorrerà ridurre la pressione fiscale, occorre un nuovo patto sociale di welfare, perché un controllo sulle dinamiche di spesa si fa solo se tu ristrutturi il welfare. E guardate che la pubblica amministrazione, per quello che riguarda i salari, ha visto calare il valore della spesa del personale di circa il 5% negli anni dal 2011 al 2014, 8 miliardi e 700 milioni di lire in meno, di euro in meno, mentre nel frattempo, in un periodo non analogo, perché dico dal 95 al 2014, è quasi raddoppiata la pressione fiscale degli enti locali. E questo non per colpa delle regioni, dei comuni brutti e cattivi, ma perché i governi centrali hanno deciso così, cioè hanno trasferito meno soldi agli enti locali. Detto ciò, qual è la parte che ti ha sorpreso di più, Guido? Allora, innanzitutto la parte che mi ha sorpreso davvero di più è quella in cui la Corte dei Conti, in questo ponderoso rapporto, si pone esplicitamente questa domanda: Quanto è dato conoscere sugli esiti e gli effetti delle 65 misure di entrata introdotte dai provvedimenti di finanza pubblica tra il 2008 e il 2014, quindi i 7 anni decisivi, diciamo, con la crisi che c'è stata? Mm-hmm. Ecco, uno si può immaginare che in un rapporto che è dedicato al coordinamento della finanza pubblica dei magistrati contabili, sulla base di dati della Ragioneria Generale dello Stato e del Ministero del Dipartimento Finanze del Ministero, si possa dare una risposta, diciamo, su provvedimenti. Bene, invece le decisioni che sono, diciamo, arrivate a consuntivo secondo regole certificabili sono su 765 appena 117, cioè il 15% di quelle adottate in 7 anni. Poi ce ne sono altre 277 misure che procedono, diciamo, con un aggiornamento, diciamo, continuo, per sapere quali effetti hanno. E infine c'è una componente più numerosa, che sono 371 provvedimenti per i quali, dice la Corte dei Conti, non si ha alcuna conoscenza né a livello di consuntivo né a livello di aggiornamento della previsione. Quindi questo dà l'idea, diciamo, nelle condizioni in cui siamo, no? La Corte dei Conti parla di un deficit informativo importante, io direi, diciamo, più semplicemente una sorta di buco nero, diciamo, che tra l'altro diventa ancora più nero nel caso dell'evasione fiscale, perché 56 provvedimenti anti-evasione in 7 anni, solo uno arrivato, diciamo, a consuntivo, e tra l'altro risultato con un impatto molto diverso rispetto alle previsioni. Quindi, questo cosa vuol dire? Che se noi non riusciamo, provo a forzare il ragionamento, se noi non riusciamo a monitorare, cioè a verificare che cosa capita poi ai provvedimenti legislativi che mettiamo in campo, esatto, navighiamo nel buio, andiamo avanti a tastoni, perché tu hai fatto un provvedimento, per esempio, per la lotta all'evasione, hai stimato che questo porterà un gettito, 3 miliardi, sulla memoria, esatto. Ma se poi tu non vai a verificare e restano delle grandi, e poi non capisci, ma perché non mi trovano i conti e il debito aumenta e non riesco a comprimere, perché manca la verifica anche in questo paese. Tutti bravi a fare l'enunciazione, stimiamo, poi cadono i governi e poi non sappiamo che cosa succede. E quindi, e poi comunque, come dicevi tu, poi l'altro punto, diciamo, se vogliamo più politico, importante, è quello sul, diciamo, che le manovre di questi ultimi anni, fino a tutto il 2014, si sono sostanzialmente rivelate come, diciamo, si sono poggiate su un grande aumento delle entrate fiscali, e mentre invece sulla spesa abbiamo fatto dei progressi in alcuni campi, progressi limitati. Nel complesso, comunque, in 7 anni la spesa è cresciuta di 16-17 miliardi, mi pare, questa è la cifra indicata. Sì, non gli stipendi, Non gli stipendi, no. Ma questo è ancora più grave, perché voglio dire, se in un paese uno potrebbe fare anche un ragionamento cinico. Sono fermi. No, la spesa per il personale, dice la Corte dei Conti, è calata in 4 anni di 8,7 miliardi. Perché lo dico in maniera cinica? Perché uno potrebbe dire, vabbè, ma almeno avessimo aumentato gli stipendi, avremmo avuto un effetto, seppure contorto, seppure non lineare, sui consumi. E invece tu hai ridotto, o meglio non aumentato, e quindi di fatto ridotto, perché poi tra chi esce e il blocco del turnover, il blocco degli aumenti, hai ridotto la spesa per personale di 8,7 miliardi, ma non hai diminuito la spesa complessiva della pubblica amministrazione, con la conseguenza che appunto nemmeno un effetto sui consumi ce l'hai, perché se tu paghi più del dovuto una stampante o la famosa siringa o sacca di plasma, e paghi meno o riduci il salario, è difficile che ripartano i consumi, perché vuol dire il valore del bene lo stai solo sovrappagando, non è che sempre una siringa hai comprato, è che hai speso troppo, ma al contempo hai ridotto il potere d'acquisto di tutto il pubblico impiego, Guido. E comunque la Corte dei Conti sottolinea il fatto che in termini di spending review i margini sono abbastanza ristretti di fatto, cioè non possiamo attenderci dei miracoli, diciamo, in termini contabili, delle cifre impossibili. Mentre sottolinea, e questo appunto era quello che dicevi anche tu all'inizio, che probabilmente bisognerà prendere in considerazione la possibilità di andare a riscrivere il patto sociale che lega i cittadini, diciamo, a quelle che sono le decisioni e le azioni del governo in termini di welfare. Certo. Quindi, diciamo, c'è sostanzialmente una richiesta di riduzione del perimetro dello Stato vera, e che quindi sulla base di questo si può pensare poi di andare a ridurre le tasse. Allora, adesso, dopo il meteo, vorrei fare un piccolo esercizio con te, e cioè è chiaro quello che ha detto la Corte dei Conti, però poi bisogna capire come si fa, Allora, qua secondo me, un po' dice, ah, purtroppo va tutto male. No, no, un attimo. C'è un tema che riguarda i 10 miliardi, Gutgeld ha detto, Santa Paghetta di quello, avremo 10 miliardi di revisione della spesa pubblica, va bene. Però ci sono altri elementi, come fa lo Stato a ridurre le tasse con questi conti pubblici? Beh, vende qualcosa. E dopo il metodo, vorrei sapere a che punto siamo con le privatizzazioni famose, quindi cessione di alcune quote dei grandi gruppi pubblici, e l'altro grande tema che è caduto nel dimenticatoio, per seguire anche il tuo ragionamento, tutto il progetto di ridurre la partecipazione degli enti locali, quindi non solo lo Stato, ma anche comuni, province, regioni, dalle cosiddette municipalizzate o utilities, no? Cioè tutto quello che non fa mercato e costa alla collettività. Dopo il meteo. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, per concludere, Guido Gentili, se come dice la Corte dei Conti non si può più pensare che solo la spending review porti tutto questo beneficio, che vanno ridotte le tasse, e voglio dire il PIL andrà un po' meglio l'anno prossimo, ma non è da lì che arriverà il grosso, non trovi che il governo si sia un po' distratto su due provvedimenti che potranno non essere così sexy, così glamour, quello che vuoi, però si chiamava riforma delle partecipazioni degli enti locali nelle società e cessione e privatizzazione dall'altro? Certamente sì, perché dunque innanzitutto il governo, per quanto riguarda le privatizzazioni, aveva previsto una manovra pari allo 0,7% del PIL, che avrebbe dovuto portare in casa soldi corrispondenti. E quindi siamo invece fermi su questo, poi sono state aggiornate queste previsioni a un più realistico 0,4 e ora credo che però siamo addirittura sotto questo 0,4, perché quindi abbiamo fatto poco o nulla. E lo stesso dicasi per le società del cosiddetto capitalismo municipale, che secondo il famoso rapporto di Cottarelli, del supercommissario Cottarelli dell'anno scorso, erano, se non ricordo male, circa 6.000 e 700, che sono società che potrebbero tranquillamente non appartenere alla pubblica amministrazione, che hanno ricevuto sostanzialmente l'incarico di produrre senza aver vinto una gara, senza evidenze pubbliche, come invece dovrebbero fare in un mercato propriamente detto. Certo. E questo è una manovra importante, di cui peraltro devo dire parliamo da molti anni, perché questo è un po' la scoperta d'acqua calda, e sappiamo come sono andate, o meglio come non sono andate le cose con i governi di vario colore e con parlamenti diversi, cioè sono tutte situazioni che poi si sono arenate e sostanzialmente è rimasto un capitolo bloccato, ma è secondo me decisivo questo. Ecco, mi scrive un ascoltatore: ma Renzi non si è distratto anche sulla lotta all'evasione? Sì, era l'ultima domanda che avevo per Guido Gentili, fermo restando che, attenzione, purtroppo siamo troppo vecchi, più io di Guido, mettiamola così, per non ricordarci tutte le finanziarie che hanno messo una certa posta come introito dalla lotta all'evasione, che non si è quasi mai rispettata in questo paese. 3 miliardi, 5 miliardi, 6 miliardi. Detto ciò, sì, io ricordo per esempio una cosa che fece molto discutere, la riduzione del contante. Anche quello mi sembra che si sia fermato, è inutile che polemizziamo, e qui qua c'è sempre qualcuno che dice ma come la vecchietta, come fa? A parte che le vecchiette adesso navigano su internet, vanno, ma poi in tutto il resto d'Europa puoi pagare con la carta di credito anche delle cifre molto molto irrisorie, 2 euro, 3 euro, 4, non è che del resto d'Europa sono tutti impazziti. Chi difende grossi utilizzi del contante, a mio avviso, non tutti, ma in molti casi difende il nero. Guido Gentili, a parte questo? Dico la riforma, a parte il contante, volevo dire. Certo. Questo è un capitolo importante, però deve essere affrontata con molta serietà. Cioè, ricordavo prima il dato che dà proprio oggi la Corte dei Conti: in 7 anni 56 provvedimenti anti-evasioni, di cui tranne uno non sappiamo quale risultato ha avuto. Questo poi con una ripercussione evidente in termini per quanto riguarda le decisioni e le manovre, perché spesso questi provvedimenti sono sottostimati o sovrastimati, quindi si rischia magari di fare qualcosa che va oltre, diciamo, il dovuto in termini di drenaggio fiscale o viceversa, e quindi questo pone dei problemi serissimi. Quindi anche perché poi dobbiamo indicare, quando parliamo di evasione, poi dobbiamo ci rifacciamo a questo totem, dobbiamo indicare poi le coperture, no? Cioè che cosa possiamo fare in realtà, diciamo, non sugli effetti sperati. E questo purtroppo è un tema formidabile, perché appunto, come diciamo prima, si naviga invece, da questo punto si naviga a vista, se non a tentoni. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Allora, adesso la borsa e poi andiamo anche sugli altri temi. Mi riferisco anche alle notizie che sono circolate. Devo dire che c'è un'anticipazione sul sito del Sole 24 Ore di un'eventuale OPA, offerta pubblica ostile, a cui starebbe pensando Sergio Marchionne, OPA su General Motors per fondere Fiat Chrysler con General Motors. Andiamo con ordine, però. Prima di tutto la borsa, la chiusura di oggi. Più 0,35% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,60% Francoforte, più 0,26% Londra, più 0,30% in questo momento l'America, euro a quota 1,12%, dopo il traffico i titoli. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, la borsa, al di là delle indiscrezioni su Fiat, poco mossa oggi. Enel Green Power più 2,80, Monte dei Paschi più 2,60, Jux più 1,90, Mediolanum più 1,70, Luxottica più 1,6 come UbiBanca e Snam. L'1,4 lo guadagna Fiat Chrysler, lo 0,90 il Banco Popolare. Tenaris meno 2,80, Finmeccanica meno 1,30, Exor meno 1,30, Pop Milano meno 0,95, Unipolsai meno 0,80%. E poi segnaliamo anche Mediaset oggi in calo dello 0,50, come Pirelli, Tod's dello 0,40, Mediobanca pure. Campari meno 0,30% come Prismian, Lex, Pirelli, Cavi. Miglior titolo B più 11,50, Adventure Group più 5,50, Philips più 4,80, peggior titolo Warfield meno 11,80, WM Capital meno 8,13, Bio 2 meno 6%, Soft Strategy meno 5,30%. Poco mosse, pochi spunti, però Monte dei Paschi ha avuto un rimbalzo abbastanza deciso e significativo dopo l'aumento di capitale, più 2,60%. Enel Green Power invece vorrei capire, perché mi sembra che ci siano notizie di mercato, lo chiedo allo strategist di IG Market Italia, Filippo Diodovic, buonasera. Sì, buonasera. Enel Green Power da un lato e Monte dei Paschi dall'altro. Sì, per quanto riguarda Enel Green Power, oggi è stata una giornata, diciamo, molto positiva per il settore energetico, perché oltre ai guadagni di Enel Green Power si è distinta anche Snam, c'è stato, diciamo, insomma, un forte acquisto per quanto riguarda il settore energetico, che un po', insomma, è legato anche lo stesso A2A, comunque ha visitato un buon rialzo quasi di un punto percentuale. Oggi quindi c'è stato, diciamo, questi acquisti sul comparto, sempre un po' legato, diciamo, un po' al riposizionamento dei grandi fondi dopo diciamo una prima parte del trimestre non particolarmente positiva. Devo dare una nota agli ascoltatori, a parte chi mi definisce demagogo, radical chic, sì, come no. Però io non ho detto che deve essere obbligatorio usare solo la carta di credito, ho detto che c'era un progetto nella lotta all'evasione, nel contrasto al nero, di limitare l'uso del contante. Volevo sapere che fine avesse fatto. Ho fatto solo notare a tutti quelli che obiettano, e poi come farà la vecchietta, che l'uso della carta di credito è possibile negli altri paesi anche per cifre molto basse, poi andiamo a vedere le commissioni bancarie, siamo d'accordo. E faccio notare che però noi, a differenza di altri paesi, abbiamo un record nell'evasione fiscale, record che proprio ci batte solo la Grecia su questo. Abbiamo anche una pressione fiscale molto elevata su chi le tasse le paga, ma abbiamo anche un record di pressione fiscale e di nero. Detto questo, andiamo avanti con l'analisi invece del dottor Diolovic, come facciamo ogni tanto, invitiamo operatori del mercato per commentare la giornata. Iux più 1,90%. Da un lato, e dall'altro appunto su Saipem, lei come si è posizionato sulle voci dell'aumento di capitale di Saipem? Sì, per quanto riguarda Saipem, l'aumento di capitale è una voce che insomma circa ormai da parecchio tempo. Oggi insomma il titolo ha guadagnato più che altro per la promozione di Citigroup, Citigroup, che l'ha promossa buy dopo che aveva un giudizio sell. Bisogna dire che questo è stato anche un cambio di giudizio dopo insomma i forti ribassi del titolo, visto che è sceso talmente tanto insomma nelle ultime sedute da farlo ritornare appetibile. Insomma, la quota 10 euro è una quota dove il titolo potrebbe anche rimbalzare e ritornare insomma verso almeno quota 10,50-11 euro, anche se noi abbiamo fissato come quota appetibile per un eventuale insomma ritorno nei portafogli a quota 11,50, quindi sono livelli ancora molto lontani per quanto riguarda Saipem. Però ecco, visto che la situazione insomma ultimamente era stata un po' deludente. Ultima domanda, dove siete più sovrappesati, come dite voi, e dove invece siete sottopesati? Ma al momento noi confermiamo sempre le nostre preferenze per il settore comunque finanziario, nonostante chiaramente questo ultimo periodo, soprattutto sugli aumenti di capitale di Banca MPS e Banca Carige, hanno portato diciamo un po' di tensioni. Però crediamo che soprattutto nel secondo semestre, poi con il probabile arrivo della stagione di consolidamento delle popolari, possa riportare entusiasmo al settore, e dovrebbe essere risolta poi anche la questione Grecia, sia in caso positivo o in caso negativo. Sì, devo dire che come ricordavamo in apertura del programma, purtroppo oggi le notizie non sono buone. Il Fondo Monetario ha abbandonato il tavolo delle trattative a Bruxelles perché ha detto non ci sono progressi e se ne sono andati, letteralmente hanno lasciato il tavolo dei negoziatori. Però l'ho interrotta, prego. Sì, no, sì, è stato molto clamoroso la notizia del Fondo Monetario, visto che per tutta la giornata c'erano, diciamo, spiravano un po' venti di accordo e le borse festeggiavano, poi invece il Fondo Monetario ha girato tutti e un po' rovinato la festa con queste dichiarazioni che sono state molto pesanti, perché sono tutto lo staff tecnico del Fondo Monetario Internazionale è ritornato a Washington e hanno dichiarato che sono molto lontani per quanto riguarda soprattutto la riforma delle tasse, quindi dell'IVA, e poi la riforma del sistema pensionistico, perché Tsipras non vuole concedere diciamo nulla, mantenere diciamo anche le promesse fatte in campagna elettorale, e quindi non toccare le pensioni, non diciamo soprattutto le pensioni anticipate, che questo diciamo è uno dei dilemmi principali, che i creditori internazionali vorrebbero regole più stringenti per quanto riguarda la concessione di pensioni anticipate, e il tavolo insomma delle trattative sembra che sia adesso certo. Molto difficile raggiungere un accordo. Ecco, per finire, visto che avevamo fatto dove eravamo insomma i nostri titoli preferiti, invece per quanto riguarda i titoli che diciamo che sono da sono invece da sottopesare, insomma noi crediamo che alcune imprese per quanto riguarda il settore industriale, soprattutto il settore delle costruzioni, non abbiamo diciamo non pensiamo che possa ritornare alla crescita come invece è evidenziato insomma nel primo semestre. Grazie anche a Filippo Diolovic, strategist di IG Market Italia. Oh, si è mossa poco Fiat oggi, anche perché insomma Oddio, poco mica tanto, vista la giornata, più 1,30%, diciamo, non ha strappato, Exor invece in negativo, meno 1,32%, ma ne parliamo perché sul sito del Sole 24 Ore appassa una notizia a firma di Andrea Malan che ipotizza addirittura un'OPA ostile, quindi un'offerta ostile, una scalata di Fiat su General Motors. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. La cosa nasce da un report diffuso stamattina da uno dei più quotati analisti di Fiat, Max Warburton, il quale in 20 pagine descrive questo scenario. Uno scenario di cui c'è anche qualche piccola conferma sul fatto che alcune banche ci stiano lavorando, almeno come caso di studio, cioè visto l'atteggiamento di Marchionne, viste le sue avanze a GM fatte nei mesi scorsi, visto il rifiuto del management di GM e visti i contatti che negli ultimi tempi Marchionne ha avviato con alcuni dei soci della General Motors, quindi per probabilmente cercare di vedere se c'è qualcuno che può sostenerlo, l'ipotesi successiva e per ora estrema sarebbe quella di un'OPA ostile. Naturalmente un'operazione del genere porrebbe più di un problema. In primis Fiat Chrysler è circa un terzo di GM come capitalizzazione, quindi ed è abbastanza indebitata, quindi però, non potrebbe. No, dico, però resta con noi, Andrea, perché questo mi interessa molto, perché tu stavi già arrivando al tema più delicato, cioè i rapporti di forza. Io però il GR24. Poi torniamo, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Minuti, dunque, Andrea Malan, stavamo concludendo le ipotesi circolate in un report su Fiat, per cui Marchionne potrebbe pensare a un'offerta pubblica ostile per fondere Fiat Chrysler con General Motors. Tu stavi ricordando, prima che io ti interrompessi per il GR24, i diversi però rapporti di forza tra Fiat Chrysler da una parte e General Motors dall'altra. Sì, attualmente Fiat capitalizza poco più di un terzo di GM, quindi in un ipotetico matrimonio, supponendo un matrimonio alla pari, gli azionisti Fiat avrebbero il 25% della nuova società. Quindi, per dare un'idea, Exor, che attualmente ha quasi il 30% di FCA, si ritroverebbe con un 6-7%, quindi una quota che la situerebbe tra i maggiori azionisti, ma difficilmente si potrebbe parlare più di controllo. Quindi un'operazione del genere, se si concretizzasse, e attenzione, questo vale sia in caso di offerta ostile che semplicemente in caso di fusione, cioè se il management GM accettasse, un'operazione del genere porterebbe di fatto all'uscita di FCA dall'orbita di Exor, diventerebbe per Exor un investimento importante, ma in cui Exor non esercita più controllo, con tutte peraltro. Exor è la finanziaria della famiglia Agnelli che attualmente controlla il gruppo Fiat. Certo. Che attualmente lo controllo, mi scuso con gli ascoltatori. Gli Agnelli non avrebbero più il controllo di Fiat, di Chrysler, e sarebbe annegato in un gruppo molto più grande, molto più solido. John Elkann ha detto più volte che è disposto a diluirsi pur di assicurare la crescita dell'azienda. Questo però avrebbe anche delle conseguenze sul rapporto tra l'azienda e l'Italia, che già si è diluito nel corso degli ultimi anni con l'acquisto di Chrysler. In ogni caso, ribadisco, sono solo ipotesi studio per ora. Dovrebbe decidersi il tutto, credo Marchionne dovrebbe decidere la sua strategia entro pochi mesi, anche perché ha detto lui stesso che è urgente il consolidamento, sia perché poi FCA l'anno prossimo è di fronte a una scaletta di investimenti estremamente ambiziosa e viceversa è tuttora abbastanza indebitata, sia per fare l'operazione per primo, lo ha scritto oggi anche un report di Mediobanca. Se il consolidamento deve essere, chi lo fa per primo sarà sicuramente avvantaggiato perché può scegliere il partner. E staremo a vedere. Grazie intanto a Andrea Malan. Comunque l'ipotesi che, visto che il no, lo ricordo a chi si fosse perso le puntate precedenti, il no arrivato da General Motors all'ipotesi avanzata da Marchionne, quindi se ci deve essere un'operazione è chiaro che a questo punto, con queste notizie, può essere solo di carattere ostile, a meno che non cambi idea General Motors. Grazie ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. fronte di una crescita delle tariffe che in questi anni ha superato quella dell'inflazione e consentito elevati livelli di redditività ai concessionari, c'è stato il mancato decollo degli investimenti da parte degli stessi concessionari. Questo non è un giudizio sindacale, questo è il giudizio che la Banca d'Italia dà sui concessionari di autostrade in questo paese. Il principale lo conosciamo, Atlantia, Autostrade per l'Italia, ma non è solo riferito a loro. Tra il 2008 e il 2013, scrive la Banca d'Italia, gli investimenti delle concessionarie, perché si chiamano concessionarie? Perché hanno avuto la rete autostradale in concessione e viene rinnovata, no? Ogni 5 anni. E quindi non è loro, è in concessione. Dicevo, gli investimenti delle concessionarie sono rimasti stabili e non hanno seguito, scrive la Banca d'Italia, il profilo crescente definito nei piani di sviluppo annessi alle convenzioni siglate all'inizio del quinquennio. In effetti gli investimenti sono in calo nelle autostrade, nelle società che gestiscono le autostrade italiane, sono in calo da almeno 2 anni. Nel 2013 sono stati 1 miliardo e 600 milioni contro i 2 miliardi del 2012. Nel 2014 si sono ridotti a 1,4 miliardi. Una flessione in particolare per Autostrade per l'Italia. Tra 2013 e 2014 da 1 miliardo e 2 si passa a soli 770 milioni di investimenti, però... Lo scorso 1 gennaio l'ultimo aumento dei pedaggi ce lo siamo beccati tutti, più 1,3% in media, in alcuni casi più 1,5%. Nel 2014 le tariffe erano già aumentate in media di quasi il 4%, il 3,9%. Allora, Gianni Dragoni, che ne ha scritto anche per il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Ne ha scritto anche sul Sole 24 Ore, scusami, no, anche per... a meno che tu non sia improvvisamente un freelance. Senti Gianni, ma qui il problema qual è? Perché abbiamo appena visto tra l'altro un rinnovo delle concessioni. Se ben ricordo, da quando fu privatizzata la rete autostradale, l'accordo è questo: tu prendi la concessione per 5 anni la prendi garantendo alcuni investimenti a patto anche di alcuni aumenti dei pedaggi, è così più o meno? Sostanzialmente così, poi i periodi sono stati anche allungati perché le concessioni poi sono state allungate. Quando fu fatta la privatizzazione, il principale gruppo autostradale italiano, Autostrade per l'Italia, una volta si chiamava solo Autostrade S.p.A. proprio per il mestiere, fu allungata per aumentare il valore, quindi l'incasso per l'IRI che l'aveva venduta in quel caso. Certo. Comunque il concetto è questo: c'è un impegno, cioè io privato che compro, che ho l'autostrada in gestione, in concessione, come hai detto, dallo Stato, perché quindi l'autostrada è sempre dello Stato, ho un contratto per cui io ho diritto anche degli aumenti di tariffe che inevitabilmente sono scattati sempre ogni anno, abbiamo visto, ma devo fare degli investimenti perché devo tenere la rete e adeguarla, anche se cresce il traffico, potenziarla. E la Banca d'Italia ci sta dicendo che questo secondo pezzo, cioè l'impegno dei privati proprietari delle autostrade, invece non è stato rispettato in pieno. Ecco, ma che cosa, da un lato, che cosa rischiano? Perché poi uno potrebbe anche dire, la società autostrade non ha rispetto, ma poi è lo Stato, è l'authority in questo caso, che deve garantire il rispetto degli accordi. Dall'altro uno potrebbe anche dire, ma magari la concessionaria, società autostrade o altri, possono avere delle difficoltà oggettive, congiunturali, possono non riuscire quell'anno a fare gli investimenti previsti. Essendo il contratto di concessione è chiaramente un contratto che ha una certa anche complessità. In estremo, se il concessionario non rispettasse gli impegni, ma credo che non basti un anno o due di investimenti inferiori, poi magari la concessionaria, mi aspetto che diranno che non hanno fatto gli investimenti ma non è stata colpa loro, questo lo sentiamo dire spesso, no? Quando ci sono situazioni del genere, comunque come estrema sanzione può prevedere anche la revoca di una concessione. Non credo che in questo caso ce ne siano estremi, però ad esempio più realisticamente quale potrebbe essere, qualora venissero anche accertate, comunque ripetiamo, questo l'ha detto la Banca d'Italia, no? Non l'ha detto un organo così, diciamo, superficiale o di parte, potrebbe avvenire che magari allora si vadano a rivedere i conti e si diano per il futuro non gli stessi aumenti, non gli aumenti previsti anche in base all'inflazione programmata, all'inflazione prevista, ma degli aumenti più contenuti. Questa potrebbe essere una reazione più ragionevole, per esempio, no? Ma non dico che avverrà questo, per dire che cosa possono rischiare. Chiaro, però insomma vorremmo sentire anche l'opinione del governo su questo. Ripeto, la denuncia non è arrivata dalle associazioni dei consumatori, non è arrivata, è arrivata dal rapporto della Banca d'Italia, che fa notare questa discrepanza tra aumento dei pedaggi, e visto che i pedaggi li paghiamo tutti, e diminuzione degli investimenti. Lo dico perché in questo periodo in cui di investimenti c'è un sacrosanto bisogno, beh, insomma, forse il governo, come ricordava Gianni, senza arrivare a misure estreme, senza dire ti revoco la concessione, ma insomma, potrebbe fare un'operazione per dire scusate, attenzione, da questo punto di vista gli accordi sono diversi e rischiate se non fate gli investimenti previsti. Grazie anche a Gianni Dragoni, il traffico e poi il Consiglio dei Ministri che è iniziato, o forse ancora no, dalle agenzie, dovrebbe iniziare in questi minuti con alcuni decreti attuativi proprio sul Jobs Act. Focus Economia. Dicevo, Consiglio dei Ministri che deve analizzare i decreti attuativi che dovrebbero completare l'attuazione del Jobs Act. Tra l'altro nel giorno in cui il Ministero del Welfare fa sapere che ci sono stati 212.000 nuovi contratti di lavoro, facendo la differenza tra 912.000 attivazioni e 700.000 cessazioni, però in aumento comunque anche rispetto al mese di aprile, però ci sono tra l'altro nelle attivazioni sono contratti a tempo indeterminato 199.000, 600.000 sono contratti a tempo determinato, 18.000 sono contratti di apprendistato. Ma ripeto, aspettiamo l'Istat per vedere se aumenta l'occupazione e cala la disoccupazione, non solo si migliora la qualità dei contratti già in essere. Di che cosa parliamo quando parliamo di decreti attuativi? Giro la domanda a Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Buonasera Claudio. Sì, buonasera a voi. Dovrebbe esserci anche la stretta sulla durata della cassa integrazione, ma l'estensione anche alle imprese oltre i 5 dipendenti. Raccontaci, prego Claudio. Allora, questo è un Consiglio dei Ministri molto atteso, che dovrebbe il governo varare, provare a varare tutta l'intera, completare l'iter di attuazione della riforma del lavoro. La cassa integrazione, c'è una novità, appunto, come hai detto tu, che si introducono dei limiti di durata, che sono, cioè si rintroduce il quinquennio mobile, cioè si conteranno gli interventi di sussidi nell'arco di 5 anni mobili, e la durata massima di trattamenti sia ordinari che straordinari potrà essere massimo di 24 mesi. Oggi di fatto c'è un meccanismo particolare di cui queste due casse integrazioni possono essere utilizzate a scadenza e prorogate. Di fatto spesse volte si succede, specialmente al sud, che si sta in cassa integrazione 4-5 anni. Adesso arriva al tetto di 2 anni, questi 2 anni possono diventare 3 se prima si utilizza il contratto di solidarietà, che è un'altra novità, no? Allora, su questo bisogna essere molto chiari. Sì. La cassa integrazione è un formidabile strumento che non hanno tutti i paesi, l'Italia ce l'ha. Perché è formidabile? Quella ordinaria in primo luogo, e quella straordinaria ha dei costi. Perché è uno strumento che si attiva in automatico, non ci sono bisogno di tavoli di concertazione, sindacati, imprese e quant'altro. Vi può ricorrere l'impresa singola. E da noi ha rappresentato un grossissimo ammortizzatore sociale quando la crisi è scoppiata 2009 in poi. Detto questo, c'è un problema sulla cassa integrazione, bisogna guardarsi negli occhi. Quando tu hai persone in cassa integrazione da 3 anni, 3 anni e mezzo, 4 anni, ti devi chiedere se ha ancora un senso la cassa integrazione, cioè se quell'azienda potrà tornare a riassumerli, potrà tornare a operare come prima, oppure stiamo solo passatemi il termine un po' brutale, tenendo in vita artificialmente quei dipendenti, ok? E quindi meglio sarebbe trovare le cosiddette politiche attive, spendere quei soldi per cercare di riqualificarli e trovargli un altro lavoro, altrimenti questo va avanti al 70-50% del salario in cassa integrazione, ma non c'è prospettiva e possibilità che possa tornare al lavoro di prima, perché quell'azienda lì non si risolleverà più. Se ho ben capito, quindi, Claudio, il governo dice: diamo un tetto alla durata, riduciamo la durata a 24 mesi o 3 anni se vi è stata il ricorso prima alla solidarietà, contro i 48 mesi attuali. A quale logica invece si ispira l'estensione della cassa integrazione alle imprese oltre i 5 dipendenti? Questa è un'altra novità. Ti chiederei di alzare un po' la voce, che ti sento un po' basso. Questa è un'altra novità. Fino ad oggi c'è un altro istituto, la cassa integrazione, oltre a quello c'è la cassa in deroga. La cassa in deroga è un trattamento completamente slegato dalla logica contributiva delle aziende e dei lavoratori che paga lo Stato. Questo strumento con questo decreto finirà. Quindi le aziende piccole dai 5 dipendenti, quindi quelle dai 6 in su, si troverebbero scoperti che oggi eventuali crisi o ristrutturazioni vengono pagate con la cassa integrazione in deroga. Venendo meno questo strumento, hanno bisogno di avere un paracadute o uno strumento. Il governo che pensa di fare? Pensa di, appunto, di non lasciarle senza tutele, quindi gli estende la cassa integrazione, ma attraverso lo strumento dei fondi. Questi fondi sono nati dalla legge Fornero. Alle imprese piacciono poco in genere, però sono fondi, appunto, che avranno una contribuzione, senza trattazione nel tecnicismo, dello 0,45% dei contributi per le aziende sopra i 5, se ne 15, sopra i 15 avranno lo 0,65. Che vuol dire? Vuol dire che le aziende prima non pagavano nulla perché c'era la cassa in deroga. Da domani, quando entrerà in vigore questo decreto, avranno lo strumento dei fondi bilaterali, cioè si pagheranno la cassa integrazione. Quindi il governo che fa? Estende le tutele, ma se le fa pagare, in pratica, no? Non sarà più a carico della fiscalità generale. Certo, va anche per le imprese sopra i 5 dipendenti, si applica quanto si già applicava per le imprese che avevano diritto alla cassa integrazione, che l'altro vantaggio, appunto, che quelli sono soldi, diciamo, non chiesti allo Stato e al pubblico. Poi, tra l'altro, se ho ben visto, ci sarà anche un meccanismo di bonus malus sulle aliquote pagate dalle imprese per la cassa integrazione. Sono questi i principali decreti che devono diventare, appunto, i principali elementi dei decreti attuativi, Claudio? Il principale è il decreto sulla cassa integrazione, poi ce ne sono altri. Un altro che invece diventerà, questo decreto sulla cassa integrazione andrà in prima lettura, sì. Quindi avrà bisogno poi di andare in Parlamento, dove ci sarà l'assalto alla diligenza probabilmente. Mentre i decreti, l'altro decreto importante che invece va alla conversione definitiva, perché ha già superato l'iter parlamentare, è il decreto di riordino dei contratti. Sì. Qui il governo fa tutta una pulizia di tante forme contrattuali, non le cancella, ma riscrive alcune norme. Vengono toccati, per esempio, i contratti a termine, apprendistato, le collaborazioni dove c'è una stretta su quelle organizzate, organizzate dal committente in maniera molto ferma, tutte queste, e poi si modifica, ci sarà lo statuto dei lavoratori anche sotto la norma sulle mansioni, cioè praticamente per la prima volta in Italia si potrà demansionare, o meglio rimansionare fino a un livello inferiore unilateralmente da parte dell'impresa in casi di riorganizzazione aziendale. Questa, appunto, è una novità, che viene riscritto tutto l'articolo 2103 del codice civile. Certo. Per cui in caso di riorganizzazione aziendale tu potrai cambiare ruolo anche demansionando, cioè con una mansione inferiore, e giustificarla in questo modo, capito bene? Esatto, giustificarla in questo modo, ma puoi scendere fino a un solo livello, e comunque la norma fa salva la retribuzione di appartenenza. Puoi toccare lo stipendio, tranne le voci dello stipendio legate alla mansione precedente che non si fanno più nella nuova mansione. C'è la parte variabile? No, tipo lo straordinario, il lavoro notturno, tipo le trasferte. Se nella precedente mansione tu facevi trasferte, avevi delle indennità, oppure facevi lavoro notturno, avevi delle indennità, queste se sei rimansionato non te le porti se la nuova mansione non le prevede. E poi, se ho ben capito, per chiudere, anche il riordino delle forme contrattuali, no? È questo. Quindi addio ai cocoprò dal 2016, quindi serve solo, appunto, il decreto attuativo. Vedremo Vedremo se tutto questo arriverà, grazie, o meglio, non dovrebbe esserci problemi in Consiglio dei Ministri, poi vanno appunto in prima lettura, mica diventano legge, lo dico a chi sta scrivendo. Grazie intanto a Claudio Tucci del Sole 24 Ore. Oh, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Vi do, visto che lo chiedete, l'ultimo aggiornamento da Wall Street. Più 0,26, poco mosso la borsa, così come poco mosso è l'euro sul dollaro a quota 1,1233. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi e chiaramente, visto che lo chiedete, confermo che domani vi sarà la top 5 della poco invidiabile classifica sugli sprechi della nostra pubblica amministrazione. Buonasera comunque. Radio 24, la passione si sente.